Mix 24 di Giovanni Minoli. Colleghi, colleghi, abbassate quel cartello. Rimuovete quel cartello, per favore, lo chiedo ai commessi. Collega Micillo, la richiamo all'ordine. Colleghi, colleghi, colleghi. Collega Di Stefano, richiamato all'ordine la prima volta. Colleghi. È il 2 marzo ed è bagarre in Parlamento. Cartelli e cori dei deputati del Movimento 5 Stelle che al grido di giù le mani dalla casa contestano le misure contenute nel nuovo decreto del governo, il decreto 256 sui mutui. Questo è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il giorno dopo la protesta grillina si sposta al Ministero delle Finanze. È il 3 marzo ed a parlare è l'onorevole Alessandro Di Battista, sempre del Movimento 5 Stelle. Siamo in via 20 settembre, appunto per evitare che passasse l'ennesima porcata a sostegno delle banche. Che cosa succede? Che con la solita scusa di recepire una direttiva europea si intende in sostanza favorire le banche per quanto riguarda la loro possibilità di mettere le mani sulle case dei cittadini italiani, nostro patrimonio. In che modo? Dando di fatto alle banche la possibilità di espropriare le case dei cittadini italiani se i cittadini non pagano fino a 7 rate non consecutive appunto del mutuo. Il 9 di marzo la riforma incassa il primo sì dalle commissioni finanza di Camera e Senato e così chi non paga non 7 ma 18 rate del proprio mutuo è moroso e con la messa in mora la banca può mettere in vendita l'immobile. Ma sentiamo cosa ne pensano i cittadini. La banca decide poi cosa fare della tua casa dopo 18 mesi? Ok. È una vergogna. È una vergogna perché facilita solamente il lavoro delle banche, nel senso che al giorno d'oggi poi è molto difficile continuare a riuscire a pagare un mutuo con continuità. Ma ne pensiamo che come al solito sono una banda di delinquenti, punto. Ci chiedono mutuo, è una cosa praticamente impossibile, devi dare garanzie su garanzie e avere questo ulteriore ricatto è vergognoso, insomma. Vedevo che lei non era d'accordo. L'immobile se non te lo puoi permettere lo vendi, prima che non paghi però. Oppure potrebbe essere la banca a venderla. Luigi Di Maio, Movimento 5 Stelle. Se in ritardo su 18 rate in 30 anni di mutuo hai difficoltà a pagarle, la banca può toglierti la casa dall'oggi al domani senza passare neanche più per un tribunale, senza passare neanche più per il tuo avvocato, senza neanche più la possibilità di riuscire per esempio a chiedere ad un giudice se è giusto il pignoramento, senza neanche più la possibilità di difendersi. Secondo il nuovo decreto, alla 18ª rata di mutuo non pagata, senza l'intervento di un tribunale e di un giudice, potrebbe essere direttamente la banca a vendere il bene e recuperare così il denaro. E i cittadini saranno d'accordo? Un istituto di credito può avere il giusto titolo di pretendere il pagamento delle rate, ma non quello di poter mettere in mezzo a una strada una persona nel più breve tempo possibile. Non sono d'accordo. La banca deve avere le sue garanzie, è giusto che le abbia. La gente non può non pagare per 18 mesi. Devi sapere che se fai un mutuo, se non paghi ti tolgono la casa. Lei lo accenderebbe un mutuo con queste condizioni? Assolutamente no. Non lo so. Adesso come adesso, no, non lo accenderei. Ma come si fa senza mutui? Grandi big compreranno le case, la gente dovrà andare in affitto. Non lo sapevo questo. Rifletterò. Se il 2016 per i risparmiatori italiani si era aperto con l'arrivo del bail-in, adesso una nuova direttiva impone una riforma dei mutui. E così alla 18ª rata non pagata, se il decreto venisse approvato, la banca può diventare proprietaria dell'immobile e venderlo senza più dover seguire tutta la procedura giudiziaria come vorrebbe il codice civile fino a oggi. Ma cosa dice esattamente allora la direttiva? La radiografia è di Giovanna Corsetti. Casa dolce casa, ma anche mutuo caro mutuo, perché se oltre l'80% degli italiani è proprietario di una casa, siamo i più dotati d'Europa, è anche vero che siamo grandi consumatori di mutui. Il 75% delle compravendite immobiliari in Italia avviene con un mutuo. Crescono nel 2013 e nel 2014 i mutui erogati dalle banche superano i 20 miliardi di euro. Nel 2005 si raddoppia e i miliardi salgono a più di 40. 123.000 euro la cifra media erogata per un mutuo dalle banche, da restituire in 10, 20 o 30 anni, con rate, interessi, garanzie, regole e norme da rispettare, come per ogni contratto. Norme italiane ed europee, come la direttiva 17 del 2014, quella sul credito ipotecario, voluta dai consumatori europei e che l'Italia dovrebbe recepire entro il prossimo 21 marzo con il decreto 256. Ma cosa dice la direttiva? Professor D'Agostino, analista finanziario e consulente bancario. Di rivedere il rapporto tra banca e cliente nella prospettiva che le banche abbiano maggiore trasparenza tra banca e del cittadino che vuole un mutuo. Oltre alla trasparenza, professor D'Agostino, questa direttiva voluta dai consumatori cosa chiede alle banche? Una migliore valutazione del merito creditizio, cioè come l'istituto valuta se il cliente potenziale può rispettare ed essere puntuale nel pagamento delle rate. Secondo direttiva, le banche nel concedere un mutuo dovrebbero dunque essere più chiare nel dare informazioni al cliente e stare più attente a chi dare i soldi, capire cioè se potrà pagare per 10 o 20 anni il mutuo. Ma se poi alla fine le cose andassero male, è la direttiva che ci dice di saltare la fase giudiziaria dopo 18 rate non pagate e far vendere la casa direttamente alla banca, professor D'Agostino? Assolutamente no, ovviamente sono delle scelte di carattere prettamente politico e questo sta nella autonomia di recepimento. Dunque una direttiva, quella sui mutui, voluta dai consumatori europei a tutela della trasparenza e della correttezza di informazione per meglio garantire la parte più debole del contratto. Direttiva però che sembrerebbe essere stata interpretata dal governo con un decreto che, secondo molti cittadini e parte delle opposizioni come il Movimento 5 Stelle e la Lega o la sinistra italiana, favorirebbe eccessivamente le banche. Giovanna Corsetti ha intervistato Giovanni Sabatini, direttore generale dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Il decreto che riguarderà i nuovi mutui o anche quelli vecchi, quelli in essere? La direttiva si applica per il futuro, quindi in nessun caso sarà applicata ai mutui già stipulati. Direttore Sabatini, esattamente cosa prevede il decreto in caso di una morosità superiore alle 18 rate? Prevede la possibilità che sia inserita una clausola accettata da entrambe le parti, quindi dal cliente della banca e dalla banca, che la banca possa soddisfare il suo credito divenendo proprietaria dell'immobile. Si salterà la procedura giudiziaria. Direttore, con le nuove regole come si calcolerà il valore dell'immobile? Sulla base di una perizia che valuterà l'immobile, una perizia di un terzo indipendente. E se il valore dell'immobile superasse il debito, direttore Sabatini? La banca deve versare l'eccedenza al cliente. Direttore Sabatini, e se invece si realizzasse un prezzo più basso del debito? Laddove il valore dell'immobile fosse inferiore al debito residuo, la banca, acquisendo la proprietà dell'immobile, dovrebbe considerare completamente estinto il suo credito e quindi nulla più è dovuto dal cliente. E se il cliente non fosse d'accordo? Se il cliente non firma il contratto con questa clausola, si applicheranno le procedure precedenti. Quindi si può rifiutare questa nuova clausola, direttore Sabatini? Di nuovo, è un'opzione. Non c'è nel decreto un imporre questa procedura per tutti i contratti di mutuo. Però, direttore Sabatini, non c'è il rischio che poi di fatto, se non si accetta la clausola, non si ottiene il mutuo? L'associazione non è un'autorità di vigilanza, però le interpretazioni diverse sono possibili, ma sono sbagliate. Però così è indubbio che la banca recuperi più velocemente le morosità, direttore Sabatini. Rende anche sicuramente più semplice per la banca recuperare, almeno parzialmente, il credito vantato. 200 miliardi le sofferenze bancarie, di cui 15 miliardi derivano dai mutui. La Lega, il Movimento 5 Stelle e molti cittadini ritengono che questo decreto sia un modo per alleggerire le sofferenze bancarie, direttore Sabatini. C'è stato un errore di interpretazione. Non è vero. Perché siccome si applica al futuro, è un qualcosa che non può andare a incidere. Però i mutui si possono anche rinegoziare e allora in quella fase, direttore Sabatini, si può inserire la nuova clausola. Se anche questa fosse una possibilità, è una parte minimale. E sulla trasparenza, direttore Sabatini, cosa avete fatto? Sui mutui abbiamo cercato di rendere più semplice la documentazione. Beh, direttore Sabatini, non è che ci sia proprio tutta questa trasparenza, altrimenti non sarebbe neppure servita una direttiva. La direttiva si deve a questo. La direttiva sarà un'ulteriore occasione per rendere ulteriormente semplice, chiara e trasparente questa informazione. Nel 2015 i mutui rinegoziati sono stati il 30%, non pochissimo. Ma adesso sentiamo la Sora Cesira, che come sempre ha una sua lettura della situazione. Buongiorno signora, sono il direttore della banca. Oh, buongiorno direttore, e mi dica. E la chiamavo per informarla che è la 18ª rata del suo mutuo che non paga. Oh direttore, mi scusi, stavo giusto venendo a portarle i soldi. Ma si figuri, non c'è più bisogno. Come no? Porti direttamente le chiavi di casa. Mutui. E ti sorridono i ponti mutui, perché casa ti fa ciao ciao, acci minchia, ma che sola fantastica, poche rate, non paghi e sei caput. La banca ci guadagna coi bot e i CCT, ma spesso ti si magna e tu non puoi capir, perché sei un pesciolino che fa gola e tu non sai che lo Stato non si arrabbia, anzi la lascia far. Con i mutui, con i mutui, con i mutui, con i mutui, con i mutui, con i mutui, con i mutui, con i mutui. Salti rate e alla casa puoi dire ciao ciao. Mutui, mutui, semplici, facili, ti fanno mazzo così. Adesso, come tutti i venerdì, con Alessandra Fiori sentiamo cosa vale la pena fare, vedere, leggere, ascoltare in questo fine settimana. Oggi parliamo di uno dei più grandi giornalisti italiani, forse il più grande, Indro Montanelli, e lo facciamo attraverso una bellissima biografia che già a partire dalla copertina, una foto di Montanelli da giovane, restituisce l'immagine meno raccontata del giornalista. Fummo giovani soltanto allora, la vita spericolata del giovane Montanelli, di Salvatore Merlo, che applica alla storiografia la tecnica della letteratura e attraversa così il rapporto con il padre mazziniano che lo vuole diplomatico e quello con la mamma cattolica. Racconta il Montanelli appassionato di Kipling e il frequentatore di bordelli, il rapporto con il fascismo, l'esperienza coloniale in Africa, le prime corrispondenze per il Corriere della Sera e poi le amicizie, Dino Buzzati, Curzio Malaparte, Galeazzo Ciano, Longanesi. E proprio una frase di una lettera a Longanesi dà il titolo alla biografia scritta da Salvatore Merlo. Ecco Salvatore, fummo giovani soltanto allora. Che voleva dire Montanelli? Montanelli voleva dire che malgrado avesse fatte tante stupidaggini, i suoi bellissimi e stupidissimi, anche questa è una sua frase, 20 anni, eppure non li poteva rinnegare perché la gioventù è quella ed era il periodo forse in cui lui si è sentito più vivo. A proposito di rinnegare, Montanelli è stato fascista e non lo ha rinnegato. Tu scrivi che con la fine del fascismo si conclude anche la giovinezza di Montanelli e che da quel momento Indro comincia a diventare appunto Montanelli. Perché? Diventa Montanelli perché si spessisce in lui una corazza di scetticismo. Cioè lui da ragazzo crede nel fascismo, fa tutte le sciocchezze che gli sembravano in quel momento giuste, va a combattere volontari in Abissinia e vede che arrivano i gerarchetti impettiti all'ultimo momento a guadagnarsi la medaglia senza sforzo, si rende conto che quella roba, quell'imperialismo straccione è tutto un fondale di cartapesta. A un certo punto dice basta, io non credo più in nulla, non ci saranno più adunate oceaniche, bandiere alle quali io mi affiderò consegnandomi, e in effetti il resto della sua vita è stata un po' quella di una scheggia che si infilava sotto l'unghia del senso comune. Ti faccio ascoltare un pezzo di un faccia a faccia del 1985 in cui Montanelli racconta del rapporto tra intellettuali e potere. Senta, lei un giorno ha detto che gli intellettuali italiani sono sempre stati una grossa camorra al servizio del potere. Lo pensa ancora? Beh sì, in gran parte sì, ma io non voglio mica dire tutti. Ma lei si mette dentro o fuori da questa camorra? Ma io sindacalmente appartengo alla categoria, alla corporazione, però mi trovo molto spesso in contrasto con la medesima. Ecco, Salvatore Merlo, sono passati più di 30 anni da queste parole di Montanelli. Credi che qualcosa sia cambiato nel rapporto tra intellettuali e potere? È cambiato tutto. Intanto non ci sono più gli intellettuali. E poi Montanelli criticava la figura dell'intellettuale organico, così semplifico, alla Pasolini, no? Ma non solo non ci sono più questi intellettuali grandissimi, Pasolini lo era, ma non ci sono più nemmeno i partiti. Un altro tema attualissimo affrontato in quella stessa intervista è quello del rapporto tra giornalismo e magistratura. Questo aver trasformato il giudice in una star è una richiesta della magistratura, dei giudici, oppure sono stati i giornalisti? Oppure è l'equivoco del segreto istruttorio? È un incontro fra due disfunzioni e fra due colpe, quelle dei giornalisti e quelle della magistratura. Ma le colpe dei giornalisti sono meno gravi di quelle della magistratura. Ecco, sempre 30 anni fa. In questo caso qualcosa è cambiato? E qui meno. Il protagonismo è rimasto, le disfunzioni ci sono i giornalisti, non si fa giornalismo d'inchiesta in Italia, ma quando ci si occupa delle grandi inchieste giudiziarie i giornalisti si fanno passare le intercettazioni e le trascrivono sui giornali. Poi in questi giorni sono i giorni del grande film americano Spotlight, specie di elegia del giornalismo d'inchiesta, e lì è tutta la rovescia, cioè sono i giornalisti che scoprono, indagano e poi cominciano le indagini giudiziarie. Senti, nella prefazione al tuo libro Ferruccio De Bortoli scrive: Montanelli era uomo da duelli infiniti, come di amori esplosivi quanto effimeri. Ma qual è stato il suo più grande rivale, considerando Scalfari e Malaparte? Probabilmente Malaparte. Scalfari è più giovane di Montanelli, e sono stati rivali, ma il vero rivale è Malaparte, ed era una rivalità compiaciuta che loro alimentavano sui giornali con botte e risposte al Curaro. Ci sono questi racconti pazzeschi. Malaparte disse: ditegli che deve morire prima lui. Chi? Montanelli. E Montanelli, quando Malaparte morì nel coccodrillo, col quale ricordava questo suo grande amico nemico, disse: alla fine Curzio ha avuto ragione nel morire. Pensando a un possibile erede di Scalfari, invece, Montanelli indicò Panza. Ha avuto ragione? Pare di no. Panza si è trasformato negli anni, per qualcuno è diventato più interessante, per qualche altro si è invece un po' perduto. La verità è che non c'è un erede di Eugenio Scalfari, che è l'ultimo grande vecchio del giornalismo italiano. Grazie Salvatore Merlo, fummo grazie. Giovani soltanto allora, la vita spericolata del giovane Montanelli. Mondadori. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Beneditemi padre, perché ho peccato. Quant'è che non ti confessi? 27 ore. È troppo presto, figliolo. Non sei così cattivo. Amen. Donatella, ma che dice? Scusa, mi stavo emozionando perché mi sono ricordata di quella volta che mi sono confessata io. E il parroco, pensa, pretendeva che io gli dicevo gli affari miei. Beh, pensa un po', mi sa che funziona un po' così la confessione. È un sacramento, lo sanno? Ma saranno sacri per i cavoli miei? E infatti poi io gli ho detto gli atti impuri di mia cognata. Comunque sì. Il film si chiama Ave Cesare e parla di un tizio che risolve i problemi delle star. Tu dirai: che problemi ci hanno le star? Ma ce l'hanno, perché magari hanno una foto a culo nudo che deve sparire, oppure deve essere cancellato uno scandalo di sesso strano. E questa volta questo deve risolvere il rapimento di un attore molto scemo che impersonizza un cinturone romano. Un centurione? Un cinturone. Signor Mannix, che succede? Il regista non trova Bird Whitlock. Me l'hanno infilata sotto la porta. Abbiamo la tua star. Metti insieme $100,000 e aspetta istruzioni. Hai capito? Però questi tizi rapitori dicono di venire dal futuro. Poi quest'attore è veramente troppo scemo. Tipo, c'è presente quell'attore italiano che è veramente cretino? No. Dai, quello con la faccia da imbecille. Dai! No, senta, Donatella, non lo so e non lo sa nemmeno lei. Facciamo così, d'accordo? No, io lo so. Solo che non mi viene il nome. Dai, quello che ha fatto... Donatella, parliamo degli attori di Ave Cesare, invece? No, parliamo dei registi. Perché qui c'è veramente una curiosità che non avevo mai sentito prima. Perché, pensa, i registi sono due. Beh, vabbè, ma a dire la verità si era sentito, Donatella. Perché due, perché scusa, uno come se la divide la cinepresa? Pari e dispari? Oppure fanno un giorno per uno? Comunque questi due forse ci sono riusciti perché sono fratelli Cohen. Oh, incredibile, i fratelli Cohen. Senta, Donatella, insomma, ma vale la pena vedere Ave Cesare dei fratelli Cohen con George Clooney, Ralph Fiennes, Francis McDormand, Scarlett Johansson, Channing Tatum? Basta leggere. Comunque il film sì, è molto divertente e poi ti fa riflettere sul fatto che se sei un cretino puoi comunque diventare una star, proprio come cose quel cretino attore italiano, dai, però. E ancora, aiutami. Donatella, grazie. Dai, coso? Il protagonista di Pietrangelo, buongiorno. Buongiorno Alessandra. Allora Pietrangelo, dove andiamo questo fine settimana? Questo fine settimana andiamo in un luogo. Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa. Il luogo è questo. E che luogo è? È un luogo assai comune. Molto comune. Molto comune. Ti ho portato proprio nell'emblema del luogo comune, la canzone che meglio di ogni altra cosa spiega il luogo comune. Perché ti voglio far incontrare, e lo incontriamo, lo salutiamo e parliamo con lui, con Giuseppe Culicchia, che ha appena licenziato per i tipi di Einaudi Mi sono perso in un luogo comune, un dizionario della nostra stupidità. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a voi. Giuseppe, tu hai fatto una cosa apparentemente semplice. Ti sei messo in ascolto sul tram, davanti alla televisione, alle cene dei sedicenti intellettuali e hai composto un dizionario dei nostri luoghi comuni, appunto, per svelare l'ottusità che si sta impossessando di noi. C'è stato un momento, o meglio, un luogo comune che ha fatto nascere questo libro? Ma il libro è nato, oserei dire, 30 anni fa, perché all'epoca mi imbattei per la prima volta nel dizionario dei luoghi comuni di Flaubert e ne rimasi totalmente innamorato. Per molto tempo ho accarezzato l'idea di aggiornare quel dizionario. Non ho mai avuto il coraggio di farlo, poi un giorno invece il coraggio l'ho trovato e quindi sì, ho cercato di compilare questo elenco di sciocchezze. Quindi sono 30 anni in realtà che stai in ascolto. Sì. Allora, senti, e qual è secondo te il luogo comune più comune di tutti? Ce ne sono tantissimi, sceglierne uno è praticamente impossibile, diciamo che facciamo voi... così, facciamo quello dei giornalisti, perché per esempio a pagina 1 del tuo libro leggo alla A di aborrire caratterizza il Mughini, perché a volte i giornalisti diventano anche un po' i loro verbi e le loro parole. Allora qual è il luogo comune più comune dei giornalisti? Esodo e controesodo, direi, perché ogni anno le pagine dei giornali e i notiziari televisivi e radiofonici si riempiono di queste parole. Senti, invece alla F di Fazio leggo: Fazio incarna un certo modo di fare televisione, vedi De Filippi, che poi naturalmente rimanda a Fazio. Fazio e De Filippi sono la stessa cosa. Si potrebbe dire, usando un luogo comune, che sono due facce della stessa medaglia. A proposito di luoghi comuni, io ho tra le mani il piccolo dizionario borghese di Vitaliano Brancati e Leo Longanesi, alla V di Walzer non si sa più ballare, poi c'è velocità, questo è il secolo della velocità, poi c'è Venezia, bisogna vederla col sole, poi c'è Verde, Midona e infine Verdi e meno grande di Wagner. Insomma Giuseppe, non è che noi italiani siamo fabbricati per stereotipi e per luoghi comuni che sono, come dire, la nostra identità? Ma ahimè sì, io temo che già Leopardi ne aveva discettato in fin dei conti nel suo discorso sui costumi degli italiani. Flaiano è stato un grandissimo antropologo che anche lui ha indagato i nostri luoghi comuni. Temo che questo sia un po' il nostro destino, essere parlati anziché parlare. Grazie Giuseppe, mi sono perso in un luogo comune, dizionario della nostra stupidità. Ma quindi siamo stupidi? È un pochetto sì, ma tutti, anch'io. Viva la mamma! Viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Ed eccoci ad Alessandra Cravetto. Buongiorno Ale. Ciao Ale, buongiorno a te. Allora, cosa ci racconti oggi dal mondo delle smamme? Senti, io ho riflettuto molto questa settimana. C'è stato l'8 marzo, la festa della donna, si è parlato tanto di donne da proteggere, di categorie da proteggere. Ma secondo me C'è un'altra categoria che va protetta, non sono più le donne, sono però gli uomini ed in particolare i papà. Senti un attimo. Io se potessi rifare il mondo, se fossi Dio, sai cosa farei? Fabbricherei Adamo con la costola di Eva, non l'inverso. Così era subito chiaro da principio, non si dovrebbe far credere che qualcuno poteva uscire dalla nostra costola. Perché non esce niente dalle nostre costole, niente, mai. Giusto dal nostro uccello, e anche lì... Questo poi è tutto da fare. Uomini, non vi buttate giù così. Qualcosa contate anche voi, insomma, qualcosa l'avete fatto. Ale, ma che ti è successo? Cioè, da smamma per eccellenza a protettrice degli uomini, sei impazzita? Sì, ma perché ti devo dire questa cosa qua. Alla fine, in questi mesi, cercando le app che migliorano le vite delle smamme, ne ho trovate tantissime che hanno come protagoniste le mamme. Ai mamma, mamma e bimbo, mammissima, ai mam, save the mam. Ma per i papà, cercando bene, io ne ho trovata soltanto una che si chiama Quick Tips for New Dads. E ha avuto un successo folle, un sacco di download. E che fa? Ma in realtà fa la stessa cosa che fanno le app per le mamme, cioè spiega dal punto di vista di un papà come gestire un bebè nei primi mesi di vita. E scusami Ale... E quale sarebbe il punto di vista del papà? Ma il punto di vista è lo stesso, ma è una questione di avere un ruolo, di voler fare qualcosa. E io direi che in attesa che qualcuno inventi un'app in più per i papà o in attesa che noi mamme gli diamo un ruolo, io un'idea da fargli fare qualcosa ce l'avrei. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Do do do do. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Buongiorno Franco Schipani. Buongiorno Alessandra. L'incendio di un tramonto nel buio della sera. La luce dei lampioni su queste strade di cera. Vi piace il rock and roll, il rock made in Italy? Bene, questi sono i Negrita che tornano in tour, Alessandra. Ma lo sai che i Negrita aprivano i concerti di Ligabue? Io non lo sapevo, me lo suggeriscono dalla regia, Rocchetti dice. Loro sanno tutto, non si sono persi un concerto di Ligabue, però hanno avuto occasione anche di vedere i Negrita, due per uno, capito? Comunque loro tornano in concerto, questo gruppo toscano molto molto bravo, che per scegliere il nome hanno addirittura scomodato i Rolling Stones, che sono i loro idoli. E i Negrita, ti ricordi quel brano dei Rolling Stones? Negrita, ecco quelli là. Comunque questa sera sono al Ryan di Ciampino alle ore 21 e domani sera alle 22 al Mamma Mia di Senigallia. Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te. E questi, cara Alessandra, sono gli Stadio. E questi, Franco, ti dico questa, te la dico io, suonavano con Dalla. Ma giusto? Sempre qualcuno che suona con qualcun altro. Però poi ce l'hanno fatta anche pochino, da soli gli pochino. Stadio. Comunque, sai, perché loro... hanno veramente lavorato duramente, devo dirlo. Io li conosco da tantissimi anni, li ho visti con Dalla... negli Stati Uniti quando facevano il tour, quando hanno registrato anche dall'America Russo, però hanno fatto la loro strada, sono finalmente riusciti ad arrivare anche a Sanremo vincendolo questa ultima edizione. Comunque l'appuntamento con loro è al Teatro Europa Auditorium di Bologna, quindi giocano in casa alle ore 21, mi raccomando, perché sono due appuntamenti da non mancare.